Bruno Virgola. Passano gli anni, i mesi, se li conti anche i minuti, diceva un famoso cantautore. È triste trovarsi adulti. Ecco. Ma tu, Virgola, con la tua folta capigliatura che ti cade sugli occhi e ti avvolge il collo, non risenti del peso della tua giovane età? Due punti esclamativi così, a capo. Due punti esclamativi servono per fare la metrica, no? Esatto, perché non ci stavo dentro. Stava troppo corta la riga. No. Dolcissimo Bruno Virgola, che peli le patate con tecnica insuperabile, Virgola, che spremi le arance con classe insuperabile, Virgola. Cuccati questo poema appassionato e gli auguri per i tuoi 30 anni da parte nostra. Oh, sono stato tosto, no? Tosto. Oh, ma che ti ho visto pelare le patate. Quando? T'ho visto. Con classe insuperabile. E anche spremere l'arancia con sicurezza inimitabile, com'è che era? Sì. Ecco. Non era. Quando hai visto pelare le patate? Scusa. Adesso non Bruno, farmi fare guarda la radiocronaca di tutti gli anni. Noi abbiamo le videocassette. Tu credi di scappare così? Ah, guarda. La festa della radio dell'83. Noi abbiamo le videocassette. Se tu non ci credi, facciamo una scommessa. Facciamo una scommessa, così abbiamo anche le prove tangibili.